è la baraonda, la nave che affonda. Qualcuno ci aiuti, si salvi chi può. La nave miraggio ha mollato gli ormeggi e comincia il suo viaggio tra fanfare e champagne. La gente importante è riunita sul ponte per la crociera VIP che la barca va. È la baraonda, la nave che affonda. Qualcuno ci aiuti, si salvi chi può. È la baraonda, la nave che affonda. Una sola scialuppa per tutta la truppa non basterà. Corteggia la velina in calore, il ministro e il banchiere si abbronzano al sole, il mercante di armi ride col generale, mentre un mozzo si accorge che affonda la nave. È la baraonda, la nave che affonda. Qualcuno ci aiuti, si salvi di voi.